D'altronde ero disturbato nella lettura dal brusio confuso delle conversazioni, dominato dalla voce più alta del signor di Charlus, che non aveva lasciato cadere l'argomento e diceva al signor di Cambremer: «Mi facevate pensare, volendo che prendessi il vostro posto, a un tale che mi ha mandato stamane una lettera mettendo come indirizzo a Sua Altezza il Barone di Charlus e cominciandola con Monsignore». «Effettivamente il vostro corrispondente esagerava un po'», commentò il signor di Cambremer, abbandonandosi a un'ilarità discreta. Charlus l'aveva provocata, non la condivise. «Ma in fondo, mio caro», replicò, «badate bene che, araldicamente parlando, è lui ad avere ragione. Non ne faccio una questione personale, voi mi capite, ne parlo come se si trattasse di un altro, ma che volete, la storia è la storia, non possiamo farci nulla. Non sta a noi rifarla. Non vi citerò l'imperatore Guglielmo che a Kiel non ha mai smesso di darmi del Monsignore. Ho sentito dire che chiamava così tutti i duchi francesi, il che è abusivo ed è forse più semplicemente una delicata attenzione rivolta sopra la nostra testa, alla Francia». «Delicata e più o meno sincera», osservò il signor di Cambremer. «Non sono d'accordo con voi. Notate che personalmente un signore d'ultimo rango come questo Hohenzollern, per di più protestante, e che ha spodestato mio cugino, il re di Hannover, non è fatto per piacermi», aggiunse il signor di Charlus, cui sembrava che lo Hannover stesse più a cuore dell'Alsazia-Lorena. «Ma reputo l'inclinazione dell'imperatore verso di noi profondamente sincera. Gli imbecilli vi diranno che è un imperatore da operetta, è invece straordinariamente intelligente. Non si intende di pittura e ha costretto il signor Ciudi a togliere gli Elstir dai musei nazionali. Ma Luigi XIV non amava i maestri olandesi, aveva anche lui la passione dell'apparato ed è stato, tutto sommato, un grande sovrano. Inoltre, Guglielmo II ha armato il suo paese dal punto di vista militare e navale, come Luigi XIV non aveva fatto, e spero che il suo regno non conoscerà mai i rovesci che hanno oscurato verso la fine il regno di colui che viene banalmente chiamato il Re Sole. La Repubblica ha commesso un grave errore, a mio parere, respingendo le cortesie dello Hohenzollern o ricambiandole col contagocce. Lui stesso se ne rende perfettamente conto e dice, con quella sua innata capacità d'espressione: «Quello che voglio è una stretta di mano, non una scappellata». Come uomo è vile, ha abbandonato, tradito, rinnegato i suoi migliori amici in circostanze nelle quali il suo silenzio è stato miserabile quanto il loro è stato grande. Proseguì Charlus, che sempre spinto sulla sua china, scivolava verso l'affare Eulenburg e ricordava le parole dettegli da uno degli incriminati di maggior prestigio: «L'imperatore deve davvero contare sulla nostra riservatezza per aver osato permettere un simile processo. Ma d'altronde non s'è ingannato, confidando nella nostra discrezione. Nemmeno sul patibolo avremmo aperto bocca. Tutto ciò del resto non ha nulla a che vedere con quanto volevo dire, cioè che in Germania noi, principi mediatizzati, siamo Durchlaucht, e che in Francia il nostro rango di altezze era pubblicamente riconosciuto. Saint-Simon sostiene che l'avevamo assunto indebitamente, ma si sbaglia di grosso. La ragione che ne adduce, vale a dire che Luigi XIV ci vietò di chiamarlo re cristianissimo e ci ordinò di chiamarlo il re e basta, prova semplicemente che eravamo sottoposti alla sua autorità, non certo che non avessimo la qualità di principi. Altrimenti si sarebbe dovuto negarla al duca di Lorena e a parecchi altri. Del resto non pochi dei nostri titoli vengono dalla casa di Lorena attraverso Thérèse d'Espinois, mia bisnonna, figlia del donzello di Commercy». Accortosi che Morello stava ascoltando, Charlus sviluppò con maggior ampiezza le ragioni della sua pretesa. «Come ho fatto osservare a mio fratello, non è nella terza parte del Gotha, ma nella seconda, per non dire nella prima, che dovrebbe trovarsi la notizia storica della nostra famiglia», disse, senza rendersi conto che Morel non sapeva cosa fosse il Kota. Ma la faccenda riguarda lui. È lui il mio capo d'armi e dal momento che gli va bene così e non fa obiezioni, a me non resta che chiudere gli occhi. Il signor Brichot mi ha molto interessato, disse a Madame Verdurin, che veniva verso di me, rimettendomi in tasca la lettera di Madame de Cambremer. È colto ed è un bravo uomo, mi rispose con freddezza. Naturalmente difetta di originalità e di gusto, ha una memoria spaventosa. Degli avi delle persone che abbiamo qui stasera, gli emigrati, si diceva che non avessero dimenticato nulla. Ma avevano almeno la scusa, aggiunse, appropriandosi di un'espressione di Swann, che non avevano imparato nulla. Mentre Brichot sa tutto e ci butta in faccia durante il pranzo pile di dizionari. Penso che non ignoriate più niente del significato dei nomi della tal città o del tale villaggio. Mentre Madame Verdurin parlava, pensavo che m'ero ripromesso di chiederle qualcosa, ma non riuscivo a ricordarmi di cosa si trattasse. «Scommetto che state parlando di Brichot», disse Ski. «Chantepy, Freycinet, non vi ha fatto grazia di niente, eh? Vi guardavo, mia piccola padrona. Me ne sono accorta, ero lì lì per scoppiare». Non saprei dire oggi come Madame Verdurin fosse vestita quella sera. Forse non lo sapevo nemmeno allora, perché non ho spirito d'osservazione. Ma intuendo che la sua toilette non era priva di pretese, le dissi qualcosa di gentile, d'ammirativo anche. Lei era uguale alla maggior parte delle donne, convinte che un complimento sia la stretta espressione della verità, un giudizio dato imparzialmente, irresistibilmente, come se si trattasse di un oggetto artistico che non ha nulla a che vedere con una persona. Così fu con una serietà tale da farmi arrossire della mia ipocrisia che Madame Verdurin mi pose questa orgogliosa e ingenua domanda, abituale in siffatte circostanze. «Vi piace?» «State parlando di Chantepy, scommetto», disse signor Verdurin avvicinandosi a noi. Ero stato solo, mentre pensavo al mio pezzo di seta verde e a un certo odore di legno, a non accorgermi che Brichot, enumerando quelle etimologie, s'era fatto ridere dietro. E poiché le impressioni che per me davano alle cose il loro valore erano di quelle che gli altri non provano o rimuovono senza pensarci come insignificanti, e poiché, di conseguenza, se avessi potuto comunicarle non sarebbero state capite o sarebbero state disprezzate, esse mi riuscivano totalmente inutilizzabili e presentavano anzi l'inconveniente di farmi passare per stupido agli occhi di Madame Verdurin, la quale constatava che m'ero fatto incantare da Brichot, proprio come ero già parso a Madame de Germain perché mi trovavo bene da Madame d'Arpajon. Per Brichot, tuttavia, c'era un'altra ragione. Non appartenevo al piccolo clan. E in ogni clan, sia mondano, politico o letterario, si contrae una perversa facilità a scoprire in una conversazione, in un discorso ufficiale, in una novella, in un sonetto, tutto ciò che l'onesto lettore non si sarebbe mai sognato di scorgervi. Quante volte mi è successo, leggendo con qualche emozione un racconto abilmente costruito da un accademico facondo e un po' vecchiotto, d'essere sul punto di dire a Bloch o a Madame de Germain «com'è grazioso!» quando, prima che io aprissi la bocca, loro esclamavano, ciascuno in un diverso linguaggio, «se volete farvi quattro risate, leggete un racconto del tale». La stupidità umana non si è mai spinta tanto in là. Il disprezzo di Bloch derivava soprattutto dal fatto che certi effetti di stile, peraltro gradevoli, erano un po' antiquati. Quello di Madame de Germain, dal fatto che il racconto sembrava dimostrare esattamente il contrario di quanto voleva dire l'autore, per ragioni oggettive che lei sapeva ingegnosamente dedurre, mentre io non ci avrei mai pensato. Fui altrettanto sorpreso dell'ironia celata sotto l'apparente cortesia di Verdurin verso Brichot, quanto alcuni giorni dopo, a Féterne, di sentire i Cambremer dirmi, davanti all'elogio entusiastico che io tessevo della Raspellière, «Non è possibile che siate sincero dopo quello che ne hanno fatto». Ammisero, è vero, che i piatti erano belli, ma proprio come gli scandalosi paraspifferi non li avevo notati. Insomma, adesso quando tornerete a Balbec, saprete cosa significa Balbec, disse ironicamente il signor Verdurin. Erano proprio le cose che imparavo da Brichot a interessarmi. Quanto a ciò che s'usava a chiamare il suo spirito, era esattamente lo stesso che nel piccolo clan un tempo era stato tanto apprezzato. Parlava con la stessa irritante facilità, ma le sue parole non coglievano più nel segno. Dovevano vincere un silenzio ostile o spiacevoli echi. Ciò che era mutato non era la sua conversazione, ma l'acustica del salotto e gli umori del pubblico. «Attento!» disse a mezza voce Madame Verdurin, indicando Brichot. Lo studioso, il cui udito era rimasto più penetrante della vista, gettò sulla padrona uno sguardo subito distolto, di miope e di filosofo. Se i suoi occhi erano meno efficienti, quelli della sua intelligenza, in compenso, spaziavano più largamente sulle cose. Vedeva quanto poco ci si può aspettare dagli affetti umani. Vi si era rassegnato. Ne soffriva certamente. Anche a chi, in un ambiente dove è abituato a piacere, intuisce che in una certa sera, e solo in quella, lo si è giudicato troppo frivolo, o troppo pedante, o troppo goffo, o troppo disinvolto, eccetera, succede di tornare a casa in preda all'infelicità. Spesso è per una questione d'opinioni, di sistema, che egli è parso a certi altri stolido o fuori moda. Spesso sa perfettamente che questi altri non lo valgono. Potrebbe facilmente dissezionare i sofismi in base ai quali lo si è tacitamente condannato. Pensa di fare una visita, di scrivere una lettera. Più saggio non fa nulla. Aspetta l'invito della settimana successiva. A volte anche queste disgrazie, anziché concludersi in una serata, durano mesi. Nate dall'instabilità dei giudizi mondani, contribuiscono ad accrescerla ulteriormente. Infatti, uno che sa di essere disprezzato da Madame X, sentendo che da Madame Y invece lo si stima, dichiara la superiorità della seconda ed emigra nel suo salotto. D'altronde non è questa la sede per dipingere uomini di tale natura, superiori alla vita mondana, ma incapaci di realizzarsi al di fuori di essa, felici d'essere ricevuti, inaspriti dal sentirsi misconosciuti, portati a scoprire anno dopo anno i difetti della padrona di casa che incensavano e il genio di quella che non avevano apprezzata nel suo giusto valore, salvo tornare ai loro primi amori quando avranno patito gli inconvenienti che anche i secondi presentavano e avranno un po' dimenticato quelli dei primi. Si può capire sul metro di queste rapide disgrazie quale dispiacere provasse Brichot per la sua, che sapeva definitiva. Non ignorava come Madame Verdurin a volte ridesse pubblicamente di lui, persino delle sue infermità, e sapendo quanto poco ci si può aspettare dagli affetti umani ed essendovisi adattato, non aveva smesso per questo di considerare la padrona come la sua migliore amica. Ma dal rossore che invase il volto dell'universitario, Madame Verdurin capì che aveva sentito e si ripromise d'essere gentile con lui durante la serata. Non potei trattenermi dal dirle che lo era ben poco con Saniette. «Come poco gentile? Ma se ci adora! Non sapete cosa rappresentiamo per lui? Mio marito, a volte, è un po' irritato dalla sua stupidità e bisogna ammettere che ne ha ben d'onde, ma in quei momenti, perché lui non reagisce un po' di più invece di prendere quell'atteggiamento da cane bastonato? Non è sincero e questo non mi piace, il che non mi impedisce ogni volta di mettermi a calmare mio marito perché, se si spingesse troppo oltre, a Saniette non resterebbe che non tornare più e questa è una cosa che non vorrei mai perché, dovete sapere, che non ha più un soldo, ha bisogno di qualche pranzo e poi, in fin dei conti, se si offende, faccia meno di tornare, non è affar mio, quando si ha bisogno degli altri si cerca di non essere così stupidi. Il ducato di Aumale è stato a lungo nella nostra famiglia prima di entrare nella casa di Francia, stava spiegando Charlus al signor di Cambremer in presenza di Morel, sbalordito e al quale, per la verità, tutta questa dissertazione era, se non rivolta, almeno destinata.